chiedo se forse anche solo per questo non valga la pena. Domandarsi se non è per sfiorare il culmine che scaliamo una roccia, se invece è per paura di cadere, che restiamo immobili a guardare e a non ricordare che questo è l'unico sbaglio da fare. Come spettri.